che non si diverte. Fa decidere ad altri se è superficiale. Spesso le distanze sembrano scommesse, ma più facilmente sono utili a mettersi l'anima in pace. Consuetudine non è un limite, semmai un confine che si può spostare. Fa sorridere come scegliere ravioli dai cinesi per Natale. Non dire niente che non sia wow. Fette, ma con lasciati guerra faccio pezzi un limone per il whisky sour. Consuetudine non un limite, sembra un confine che si può spostare. Può far crescere, dare lacrime, essere dure come perdonare. Non dire niente che non sia wow. Non è un limite, sembra un confine che si può spostare. Puoi vantartene o pentirtene, basta che non sia solo parlare.